now boarding. A Detroit. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie. Now Boarding l'abbiamo presentato parecchie volte ormai quest'anno, quindi presumo che voi sappiate di cosa parliamo e qual è il nostro intento mal riposto. Siamo qui oggi riuniti, Francesco, per una puntata lontano. Nelle ultime puntate ci siamo spostati sempre più lontano. Sì, stiamo... Tra poco faremo una puntata, non so, un italiano che si è trasferito su Marte, probabilmente. Perché magari più sì. Lontano va dall'Italia, meglio è, come dire, no? E infatti, ciao anche da Francesco, benvenuti, bentornati a Now Boarding. Come stai, Lorenzo? Ma è abbastanza bene, ho bevuto un pochino, quindi non ti assicuro la mia lucidità, okay. Ma la mia presenza sì. Beh dai, quella è già insomma una buona cosa, dai. Ok, vabbè, facciamo la nostra solita, diciamo... Pessima gioco, figura. Sì, il gioco delle tre carte, nascondiamo la meta ma mostriamo la canzone. Sì, dai, presentiamola, sono Siouxsie and the Banshees con Hong Kong Garden. Eccoci in studio, quanto siamo appropriati noi qui di Now Boarding. sì. Traccia appunto di cui il titolo era Hong Kong Garden, ovviamente siamo ad Hong Kong, di un gruppo inglese. Hong Kong è stata colonia britannica, no? E quindi per soltanto quei 156 anni che insomma, non influiscono, come per, dire, per no? Nulla, per nulla. Quindi noi abbiamo chiuso il cerchio così, insomma. Ospite Aurelio, vediamo se c'è. Ciao Aurelio. Aurelio? Ciao a tutti. Ciao Lorenzo, ciao Francesco. Ciao. E bene, allora partiamo con il nostro terzo grado in cui intimoriamo gli ospiti per capire subito chi comanda qui. Infatti. Allora Aurelio, età? Tu aspetta Lorenzo, tu poliziotto buono, io poliziotto cattivo? Sì, sì. Boh, esatto, ok, siamo okay, d'accordo. Va bene. Preparati Aurelio. Facciamo i cugini merda, non lo so. Allora, età? 27 anni. Di dove sei? Sono nato a Domodossola in Piemonte, ma sono cresciuto a Caltanissetta in Sicilia. Domodossola, Lorenzo, che noi conosciamo per la D di Domodossola. Esatto, esatto. Andiamo con giro la ruota. Via i luoghi comuni. Allora, e dove ti trovi ora? Al momento vivo a Hong Kong, dove insegno inglese da circa 3 mesi, e a settembre inizio un dottorato in storia della Cina moderna alla University of Hong Kong. Proprio Hong Kong, vivi o...? In realtà vivo in una piccola isola chiamata Lamma, che sta a circa 20 minuti di traghetto da Hong Kong Island. Ok, da quanto tempo? Mi sono trasferito a luglio con la mia ragazza, quindi sono circa 8 mesi. Ok, quindi allora tu appunto insegni inglese, lei invece cosa fa? Lei è anche un insegnante di inglese per il British Council locale. Perché è nordirlandese. Sì, perché hai deciso di trasferirti lì? Perché... durante l'università in Italia, ho fatto l'università a Roma, ho studiato cinese per circa 5-6 anni, avevo già vissuto un po' a Pechino e a Shanghai per qualche mese, e una volta finito gli studi volevo continuare gli studi con un dottorato, e quindi ho deciso di trasferirmi a Hong Kong perché era il posto migliore dove riuscire a realizzare i sogni. Era che ci sono riuscito. Ho capito, quindi se ho capito bene il tuo percorso è Domodossola, Caltanissetta, sì. Roma, Hong Kong. Sì. Ok. Vabbè, no, niente, si può, voglio dire. Si può fare, e no? Quel Caltanissetta che non mi tornava, comunque, insomma, nulla di che. Perché forse aveva un volo più economico, Caltanissetta, Hong Kong, o magari, boh. L'unico diretto. quindi, sai già quanto durerà la tua esperienza da quelle parti? Il dottorato in genere dura dai 4 ai 5 anni, quindi minimo 4 anni. Ok, quindi un bel lasso di tempo. Vabbè, prevedi un rientro in Italia dopo, anche se è difficile rispondere, insomma. Prevedi un rientro in Italia? Sì, dal momento no, in realtà, perché il dottorato, come dicevo prima, dura 4 anni, e poi la mia idea sarebbe di continuare con avere una carriera accademica all'estero, anche perché sfortunatamente sappiamo tutti le condizioni dell'università italiana. Sì, più o meno, dai. Quindi è un po'... Non è proprio il posto migliore dove... potresti aspettare, magari fra qualche anno migliora, non lo so, dopo 30 governi tecnici. Sì, bisogna aspettare, diciamo, bisogna avere molta pazienza. Sì, chiamiamo tecnici sempre più tecnici e esce fuori qualcosa, li spremiamo come delle arance, insomma. Invece non sono d'accordo, io dopo il governo tecnico farei il governo artistico. Sì, vero, perché governo... diamo un ruolo a ogni ambito. Noi siamo artisti. Sì, certo, poi faremo, non so, il governo dei cuochi. Non so. Va bene, comunque dopo questi sproloqui partiamo con la seconda traccia per dare modo a Aurelio di bere un bicchiere d'acqua. Cosa c'entra con Hong Kong questa traccia, Lorenzo? Proprio niente, guarda. Io ho guardato gruppi di Hong Kong, musica tipica del posto, ma devo dire la verità, mi ha fatto proprio schifo. E quindi alla fine ho ripiegato su un gruppo londinese, che però è uscito quest'anno con un esordio, si chiamano i Django Django. Plagi beatlesiani e diciamo venature elettroniche indie. Questo pezzo si chiama Hail Bop. We'll be right back. Rieccoci. Allora, Aurelio, è la prima volta che abbiamo come ospite un insegnante elementare, no, Lorenzo? Sì, prima volta, magari puoi darci quell'istruzione che a noi è mancata, diciamo, proprio primaria. Abbiamo quel vuoto lì. Nadè, come mai questa scelta? Cioè, tu sei partito con l'intenzione di fare questo lavoro o l'hai trovato dopo? No, in realtà questo lavoro è stato frutto di una lunga ricerca, anche abbastanza complicata. Perché arrivando, essendo cittadino italiano, sono arrivato a Hong Kong con soltanto 90 giorni di tempo per trovare lavoro, sono arrivato con un visto turistico, quindi avevo anche una certa pressione per trovare subito lavoro. Certo. Ho cercato all'inizio di cercare lavoro con le aziende italiane, considerando il fatto che parlo anche cinese, però diciamo che la situazione non è stata eccezionale. A parte qualche offerta come cameriere e ristoranti, non ho trovato altro. Mm-hmm. Poi fortunatamente il mio inglese è abbastanza decente, quindi sono riuscito a trovare lavoro come insegnante di inglese, che in realtà è un'occupazione abbastanza comune per molti stranieri, per europei, americani, australiani qua a Hong Kong. Ok, quindi non ti piacevano i bambini, non era quello il motivo? Non ho questa passione da Don Milani per... Ah, ok. Però... Bello questo parallelo, mi piace. In realtà è un lavoro che comunque dà molto dal punto di vista umano. Sempre magari può sembrare un cliché, però sicuramente è meglio di stare di fronte a un computer. Ma quindi tu lavori per delle scuole private, per gli istituti privati o? Solo per scuole pubbliche, lavoro solo per scuole pubbliche. Okay. In realtà il sistema è un po' complesso perché ricalca quello delle scuole inglesi. Comunque in generale sono scuole che potremmo definire pubbliche. Quindi nelle scuole di Hong Kong viene insegnato, diciamo, a livello di lingua madre sia l'inglese che il cinese? No, soltanto in inglese, mi occupo soltanto dei corsi Cambridge in inglese. Ah, ok. Nel programma di scuola elementare, perché tutte le scuole elementari, o meglio la maggior parte di esse, hanno dei programmi aggiuntivi per passare l'esame Cambridge, il TOEFL. Ah, certo. Quindi mi occupo di quello in particolare. Chiaramente il TOEFL all'elementare. Sì, io l'ho fatto l'anno scorso il TOEFL, ma evidentemente... cioè, i bambini delle elementari devono affrontare il TOEFL? Ci sono dei livelli più bassi, cioè il first e il future. Ok, va bene. E quindi, diciamo, qual è stato l'impatto di entrare in questo ambiente di lavoro che alla fine comunque è molto interno alla vita che si può vivere, sì, dentro Hong Kong proprio? Non è l'azienda europea in cui tu vai e ci sono europei, ma sei proprio dentro alla vita di Hong Kong. Sì, assolutamente. In realtà il primo giorno fu abbastanza strano, perché sono andato a insegnare in una scuola cattolica, quindi appena sono arrivato c'era la foto del Papa all'ingresso della scuola, cosa che non mi aspettavo. E lì ti sei chiesto se eri ritornato in Italia, probabilmente? Ma non lo so, ho pensato che forse aveva qualcosa a che fare con ciò. In realtà adesso insegno pure in una scuola metodista e in una anglicana, perché molte delle scuole sono collegate alle chiese locali che sono arrivate con gli inglesi. Certo. In genere il sistema scolastico come funziona ad Hong Kong? È ricalcato su quello britannico, quindi c'è una prevalenza di scuole private su scuole pubbliche, una commissione anche. Le scuole magari sono finanziate, tipo insegno in una scuola metodista che è finanziata di proprietà della scuola della chiesa metodista di Hong Kong, però ha dei forti finanziamenti pubblici. Ok, riguardo al tuo lavoro, hai qualche aneddoto da raccontarci che ha caratterizzato l'inizio della tua esperienza o comunque il proseguire? Sì, a parte i bambini sconvolti alla mia barba, perché non avrò mai visto una, oppure essere chiamato... Sì. Madonna, oppure essere chiamato... Self teacher. Addirittura. Ok, sì, ma sì, da cavaliere alla tavola. Non, gli insegnanti non possono portare la barba? O... non è comune, anche perché in realtà non sono molti cinesi che hanno una barba. Ah, sì, è vero, mi ero dimenticato. Mi stavo già immaginando, sì, un corpo insegnanti europeo, mi spiace. No, in realtà oltretutto c'è un contatto molto ristretto con gli insegnanti europei, perché per lo più sono insegnanti di corsi speciali dopo, corsi extracurricolari, potremmo dire. Certo. E quindi insomma ti vedevano un po' come un alieno, voglio dire. Sì, soprattutto dopo che mi chiedevano il nome non avevano più pallida idea, cioè, ma sei americano, sei australiano, sei inglese, E naturalmente non avevo la più pallida idea di cos'era l'Italia. Ah, cioè non sanno neanche che esiste, non sanno neanche dov'è addirittura. No, non sanno neanche cos'è l'Europa. Poi il problema è che insegno scuole differenti. In generale insegno in questa scuola cattolica, che è una zona molto povera di Hong Kong, in realtà quasi al confine della regione speciale, quindi molto vicino alla Cina. E in realtà poi insegno anche in questa scuola metodista, dove invece l'ambiente è molto più upper class. Certo. E quindi si sente molto. Si sente molto lo stacco di classe quasi. Sì. Ma in scuola, come dappertutto, a Hong Kong le disparità sono enormi e si vedono fin dalla qualità della vita, da quello che mangi, dove vivi, quanto spazio hai nella tua casa per vivere, come ti muovi nei trasporti. L'impatto direi che è molto più forte che in Europa. Certo, leggevo che anche il sistema scolastico è molto rigido, improntato sulla disciplina fin da piccoli, con una serie di graduatorie e quant'altro. Confermi? Sì, ti posso confermare sulle graduatorie, ti devo smentire sulla disciplina. In realtà è molto facile trovare alunni assolutamente disciplinati. Fecondo che il secondo giorno di lezione un bambino ha accoltellato un altro con una penna. Proprio quegli incidenti leggeri, voglio dire. Ma vabbè, dai Aurelio, dici la verità, tu sei uno di quegli insegnanti che si fanno mettere i piedi in testa, oppure quando entri la classe si zittisce tutti? No, grido abbastanza, diciamo. Anche perché sono abituati con donne, quindi donnette inglesi, oppure molte ragazzine indiane anche ci sono. Ho capito. Quindi non sono nemmeno tanto abituati agli insegnanti maschi. Va bene. Non che sia questa senza da Conan il Barbaro. Sei arrivato un po' come un vichingo. Va bene. Passiamo alla terza traccia, che ancora una volta mi spiace, ma non c'entra proprio nulla con Hong Kong, ma se la sono voluta loro, dico io. E sono i VCMG, cioè sono le iniziali di due artisti che sono, diciamo, in giro da un pochino, che sono Vincent Clark e Martin Gore. Sono uno spin-off dei Depeche Mode e sono decisi così di buttarsi sulla techno, magari, insomma, hanno visto che tirava e hanno detto perché non provarci anche noi. Così hanno fatto il loro giocattolino, è uscito un disco quest'anno e il pezzo che vi propongo è il primo del disco, che si chiama Lowly. We'll be right back. Eccoci tornati a Hong Kong, addentriamoci dentro la città, dopo questa prima, diciamo, discussione sul sistema scolastico. E dunque, Aurelio, ci sei? Sì. Perfetto, allora possiamo andare. E dunque, Hong Kong è, diciamo, uno dei centri principali che hanno caratterizzato il boom asiatico, però rispetto a molte altre città ha comunque mantenuto una forte impronta anglosassone, diciamo, no? Quindi sembrerebbe quasi un luogo ideale per andare a vivere anche magari da parte di un europeo, incontrando quel compromesso tra lo sviluppo economico orientale e comunque le usanze europee e magari, diciamo, la cultura europea in un certo senso. C'è qualcosa di sbagliato in questo o in effetti è così? No, guarda, in linea di massima sono d'accordo. Hong Kong è forse il posto più facile per un occidentale, per un europeo, probabilmente anche per un italiano, per vivere in Asia. Puoi trovare tutto quello che vuoi, qualunque tipo di cibo, di comodità che stai cercando. Quindi da quel punto di vista è sicuramente il posto più facile. L'unica distinzione che farei è il fatto che in realtà Hong Kong si divide tra l'isola di Hong Kong vera e propria e la penisola di Kowloon, dove in realtà si concentra la maggior parte della popolazione cinese, di origine cinese, ed è il posto con la più alta densità di popolazione al mondo, quindi veramente qualcosa di impressionante. Ma si avverte questa densità di popolazione quando ci vai? Assolutamente, assolutamente. Non anche cammini per strada, non c'è spazio, davvero non c'è spazio per vivere, per mangiare. È veramente difficile vivere. Ma è un problema effettivo che la città sta tentando di affrontare, o una cosa che alla fine per loro è concepita come una cosa normale, voglio dire? No, è un problema enorme ed è forse il problema più grande di Hong Kong, nel senso che si riflette in un problema di spazio per le persone, nell'impossibilità di trovare delle case adeguate. Il governo di Hong Kong ha speso miliardi per costruire quelle che potremmo definire case popolari, però stiamo parlando di abitazioni dove vivono 6-7 persone in pochi metri quadri, quando invece allo stesso tempo le persone più ricche hanno delle ville enormi sull'isola di Hong Kong. E quindi siamo tutta un'espansione verso, diciamo, verso nord, cioè verso la parte che verso confina con la... Esatto, il New Territories, quindi verso la Cina praticamente, no? Sì. Ma anche perché l'isola di Hong Kong è uno dei posti dove la proprietà immobiliare è tra le più costose al mondo, assolutamente. C'è una gigantesca bolla immobiliare qua nell'isola di Hong Kong, tant'è certo. Che gli affitti sono enormi. Tu dove vivi? Io in realtà vivo in una piccola isola che si chiama Lamma, che è l'ex isola di Ippi. Ci sono ancora certi ricchi americani in Brasile. Mica scemo, voglio dire. Anche perché costa la metà di vivere, la metà rispetto a Hong Kong. Sì, quindi sì. È una piccola isola tropicale a 20 minuti di traghetto da Hong Kong, dove non ci sono macchine addirittura, perché sono fuori legge. Stiamo parlando di un posto piccolissimo, vivo dietro la giungla. Quindi insomma mi dai l'idea di un bel posto, no? Quindi tu sei lì, non hai macchine in questa isoletta, ti prendi il traghetto, anche, diciamo, dal punto di vista paesaggistico apprezzabile, è un bel posto? Sì, fantastico, davvero bello. Non sei mica trovato l'isola, a parte la centrale a carbone che hanno costruito con delle che è abbastanza orrenda, che assomiglia a quella nucleare di Simpson. Fantastico, insomma. Perché stavo per dire, non si è mica trovato un brutto posto dove stare, Aurelio. Poi è arrivata la centrale a carbone. Vabbè. Va bene, insomma, abbiamo rovinato l'idillio. Comunque ci piace immaginarlo lo stesso come un'isoletta di hippie che vivono ancora tra i fiori e il culto della pace eterna. È pieno di serpenti qua. Pure. No, allora, ecco, si è rovinato veramente tutto. Infatti. La centrale al carbone avrà pure i serpenti. No, non è un posto in cui andare. Per fare un attimo un piccolo riepilogo, insomma, dicevamo prima, gli inglesi ci sono stati per 156 anni, quindi hanno lasciato una buona impronta sulla cultura di Hong Kong. E attualmente fa parte della Cina Hong Kong, però è una delle due, diciamo, regioni autonome, no? All'interno. Sono le due regioni amministrative speciali, Hong Kong, che è appunto l'ex colonia cinese e inglese, e Macao, che è l'ex colonia. Sì, e ovviamente questa situazione amministrativa fa sì che Hong Kong sia fortemente diversa rispetto a tutto il resto della Cina. Assolutamente. Anche per quanto riguarda le libertà individuali, eccetera, no? Sì, naturalmente, per tenore di vita della popolazione di Hong Kong, come anche naturalmente per la libertà di espressione, per le libertà individuali, Hong Kong ha un sistema di rule of law che naturalmente ancora in Cina non è stato implementato. cioè, due cose su tutte, non esiste la censura di internet e la moneta è un'altra, sbaglio? Sì, sì, c'è il dollaro di Hong Kong e non c'è alcuna censura. Va bene, e per quanto riguarda, diciamo, le zone fuori dal centro, cioè i New Territories, da cosa sono caratterizzati? Sono caratterizzate da enormi costruzioni di case popolari, enormi complessi di case popolari, stiamo parlando di centinaia di grattacieli che si sviluppano in queste new town, chiamate, che non sono quelle che Berlusconi ha costruito. No, ok, differenziamo. Queste le hanno fatte per davvero. Certo. Queste le hanno fatte per davvero, ma fanno sempre schifo. Quindi... Ok, quindi il risultato è lo stesso, però noi non le abbiamo, magari, non so, abbiamo speso i soldi per non averle, ma... Comunque, almeno loro le hanno. Esatto, almeno loro le hanno. Ma diciamo, questa smania di costruire grattacieli è motivata anche dalla densità o è solo, diciamo, una... Assolutamente, assolutamente per la densità. È l'unico modo per arginare, per cercare di contenere la popolazione. Certo. Che poi in realtà è qualcosa che ha degli effetti enormi sulla vita di ogni giorno degli hongkongesi. Anche insegnando a scuola, vedo come molti di loro hanno problemi psicologici. Ne parlavo anche con le mie ragazze, che sono insegnanti. E c'è un sacco di stress, non soltanto per la cultura dello studio, del lavoro che c'è a Hong Kong, ma anche per una mancanza di spazi dove questi bambini crescono. Molto spesso devono dividere la camera con altri 3-4 bambini, vivendo in salotto, e non possono uscire fuori per giocare, c'è proprio una mancanza reale di spazi. Certo, quindi comunque Hong Kong, che magari ha un occhio europeo, sembra comunque una città... che raggiunge i livelli di ricchezza delle città europee o americane, comunque... ha la sua povertà, diciamo. Diciamo che esistono due Hong Kong differenti. Esiste l'Hong Kong dei miliardari che vivono a Hong Kong Island, e esiste l'altro Hong Kong dei normali cittadini cinesi che fanno una vita abbastanza dura. E la media, diciamo, di vita là è molto povera. Bene, e un'ultima cosa, sempre riguardo alla città, diamo una panoramica della Hong Kong da cartolina, cioè magari posti che tu ti senti di consigliare, in cui ci sono spettacoli visivi o cose del genere, tipo leggevo della Symphony of Lights. Allora, prima di tutto il posto più particolare, più speciale di Hong Kong è il cosiddetto Peak, che è praticamente la vetta di una montagna Hong Kong Island. Ci si arriva tramite una spettacolare funivia che parte dal centro della città e in circa 20 minuti posto questo plateau sulla montagna, dove si può vedere tutta la regione speciale se non è nuvoloso. Però qua una terrazza da cui ammiri tutta Hong Kong, no? Sì, fantastico, sì. Anche poi il viaggio in funivia è assolutamente eccezionale, perché si viaggia attraverso questi enormi grattacieli di una funivia del 1920. Beh, per chi non avesse in programma un'uscita prossimamente a Hong Kong, è più facile visitare www.discoverhongkong.com. Da lì si va alla pagina attrazioni, insomma, e poi The Peak, e si ha praticamente la possibilità di vedere come si chiamano queste cose? Una serie di quelle foto in cui ti muovi e vedi tutto il panorama, insomma. Ah, quelle a 360 esatto, gradi, tipo sì. Una foto interattiva a 360 gradi in cui è possibile muoversi e avere un'idea di quello che ci racconta Aurelio, ecco. E poi abbiamo visto qualcosa anche della Symphony of Lights, diceva Lorenzo. Sì. Symphony of Lights? Sì, sono dei fasci di luce proiettati dai grattacieli attorno al Victoria Harbour. Ok, sì, scusatevi. L'abbiamo colto impreparato qui. Aia. Sapevo cos'era, ma non ho dimenticato il nome. In realtà è uno spettacolo che fanno ogni giorno, circa verso le 7:30 di sera. E in realtà si tratta appunto di un gioco di luce all'interno dei vari grattacieli da Hong Kong Island e dall'altro lato della Victoria Harbour. Quindi praticamente inizia appunto questo gioco di luce all'interno dei vari grattacieli che sono stati a fare. Soprattutto quello della Bank of China Tower, dove in realtà riesce anche a indicare l'ora tramite le luci, con un sistema abbastanza complesso. Quindi insomma l'emblema di quella Hong Kong che ci dicevi, rappresentata dal mondo, insomma, della finanza, dei capitali, insomma, dei grossi flussi di capitali, eccetera, no? Sì, fai conto che tutti i più importanti grattacieli di Hong Kong hanno a che fare con la finanza: la Bank of China Tower, l'International Financial Center, Sì, oltretutto nel 2011, secondo la Banca Mondiale, è stata classificata come il secondo miglior posto al mondo per far nascere un'impresa dopo Singapore, che è anch'essa in Oriente, insomma. Perché è una delle, è la seconda economia più libera al mondo, diciamo, certo, quando siamo nella terra del liberismo selvaggio. Quindi noi finanziamenti per i prossimi decenni ce li possiamo belli che scordare, insomma. Francesco, ci dovremmo tenere il mixer di Radio San Donà. Infatti. Ahimè. Senti, volevo chiedere, Aurelio, in cosa Hong Kong è rimasta come tradizione, come cultura anglosassone, in cosa invece è più cinese? Mi sembra che c'è stato un po' un cambiamento anche della cultura dal 97, quando Hong Kong è passata sotto la Cina, no? Sì, in realtà naturalmente è una questione molto complessa. Posso parlare dal punto di vista della cultura quotidiana, si vede subito, sì, a prima vista, una differenza tra i cittadini di Hong Kong e i cittadini del mainland, della Cina normale, che arrivano qua a Hong Kong come turisti o che cercano lavoro. E quindi comunque stiamo parlando degli unici cinesi che riescono a fare la cosa senza frammi, oppure comunque di una certa educazione civica, che possono dire che è più facile da riscontrare a Hong Kong rispetto al resto della Cina. Certo, perché un'altra puntata, tra l'altro, che era, mi sembra, dedicata a Shanghai, vero Francesco? Uh-huh. Era di Shanghai, c'era stato detto che, diciamo, il rispetto della legalità è abbastanza trascurato in altre parti della Cina, nel senso che evasione a mille, e poi scarso rispetto anche appunto per senso civico. Ma guarda, ti direi che dal punto di vista di corruzione sono messi male, nel senso, no, però parliamo di big business, di grandi numeri. Quello che ti posso dire, avendo pure vissuto un pochino a Shanghai, è che c'è un maggior rispetto per lo spazio pubblico, cioè, non si sputa per terra, i bambini non fanno la cacca per terra, la gente non gira in pigiama di notte come invece fanno a Shanghai. Okay. È una comodità anche quella, comunque, voglio dire. È una comodità, loro lo vedono come un modo per ostentare il nuovo capo d'abbigliamento di sera. Beh, d'altronde, scusa, io spendo soldi per un pigiama e poi non vede nessuno, mi giro per strada. Chiaro. Assolutamente. E siccome noi siamo quelli dei luoghi comuni, altro luogo comune, Lorenzo, Hong Kong uguale cinema e film di Kung Fu, no? Sì, assolutamente. Ma avete anche una statua di Bruce Lee, o sbaglio? Sì, c'è una statua di Bruce Lee sull'altra riva di Victoria Harbour. Meraviglioso. Come Francesco tira fuori proprio gli altarini delle città, gli stereotipi più triti e ritriti. Meraviglioso. Nella mia testa di Domodossola per Domodossola, esatto, e la statua di Bruce Lee per... Abbiamo disegnato, diciamo, la vita di Aurelio in maniera assolutamente trash. Perdonaci. Dalla Didi Domodossola al Kung Fu, proprio. Scriviamo un libro. E quindi andiamo a sentirci Il Buon Genio, che è quello di Pop Porno. Molti lo ricorderanno. Esiste per ancora, quello. Scusa? Eh sì, e continua a far dischi. Ti consiglio le sue esibizioni, sono abbastanza discutibili. E, con gli eroi del Kung Fu, proprio. A dopo. Jet Li, la contromossa del favoloso Van Damme, e infine lo sguardo di Jackie Chan. Jackie Chan, Bruce Lee, mettici Jet Li, Steven Seagal, Charles Bronson, Chuck Norris, Jackie Bruce, Jet Li. Jet Li, Steven Seagal, Charles Bronson, Chuck Norris, Jackie Bruce, Jet Li, Wada Wada Wada Wada Wada. eccoci tornati di nuovo in trasmissione per l'ultimo scampolo di Hong Kong. Dunque, Aurelio, sono state da poco svolte delle elezioni per il nuovo del cosiddetto Chief Executive, che non è quello dell'azienda, ma in questo caso è, diciamo, si tratta di elezioni amministrative per appunto le elezioni elettorali di Hong Kong. E ci sono stati un po' di scandali anche, ci hai preannunciato. Cos'è successo? Ci sono stati abbastanza scandali fin dall'inizio. La situazione in realtà è molto complicata, però i due principali candidati, che sono stati Leung Chun-ying, chiamato anche CY Leung, che poi in realtà è colui che ha vinto, e l'altro candidato Henry Tan, sono stati tutti e due vittime, soggetti. Nella mia mente si sono subito materializzati due giocatori di Kung Fu, vabbè, lasciamo perdere, scusate. In realtà, se vedi le foto, hanno proprio nulla a che fare con... No, è vero, immagino. Vabbè, puoi andare avanti. Anche se uno viene soprannominato il lupo e l'altro viene soprannominato il porco. Ok, quindi insomma, come è andata? Allora, ha vinto CY Leung attraverso una votazione molto particolare, perché Hong Kong in realtà il chief executive non viene votato dalla popolazione di Hong Kong, ma viene votato da un comitato ristretto di 1200 persone che rappresentano il big business di Hong Kong, i migliori partiti politici, perfino i professori universitari e piccole rappresentanze cittadine. Una comunità di capocce praticamente, e poi elegge il capo, no? Tutti quanti con i giusti contatti a livello politico ed economico. Quindi non stiamo parlando di elezioni democratiche, perché sono dei grandi elettori che non vengono eletti da nessuno. Il problema è stato che entrambi i candidati principali sono dimostrati probabilmente inetti o comunque corrotti fin dall'inizio. Uno è Henry Tang, è stato coinvolto in scandali riguardanti infedeltà coniugali e la costruzione di un basement sotterraneo sotto la sua casa, cosa che in realtà a Hong Kong è gravissima, perché come dicevo prima non c'è spazio per costruire e non si dovrebbe fare assolutamente. Ah, ok. Praticamente un garage abusivo, insomma. Mega garage abusivo con tavolo da biliardo, piscine. Va bene, insomma. Però un garage. Vabbè, dai, per via della densità, insomma, può essere anche giustificato, come dire. Poi voglio dire, le infedeltà coniugali. Ma sì, cosa sono per noi, insomma? Scaglie la prima pietra. Ma qua parliamo di una società puritana e combuciana. No, cioè, vabbè, no, scherzavamo, sì. E anzi, cioè, sono cose da, come dire, da rilevare, voglio dire. Però interessante, sì, questo sistema per delle elezioni, insomma, assolutamente, ecco, non democratico, che di fatto porta gli interessi, immagino, di alcuni, solo di alcuni, ecco. Sì, sì, naturalmente già si sa chi va a votare chi. Naturalmente questi candidati sono espressione di certi gruppi di potere a livello economico, politico. Certo, certo. Anche l'altro candidato, vincente, Leo, in realtà è stato coinvolto in scandali che riguardavano il fatto che fosse coinvolto in una giuria che doveva decidere un bando per delle costruzioni. Mm-hmm. In realtà si è scoperto che aveva dei contatti con l'azienda che ha vinto. E poi l'altro problema principale di Leung è che si dice sia un criptocomunista. Almeno questo è quello che dicono più a Hong Kong. Un comunista delle cripte. Sì, il problema è che in realtà tecnicamente non dovrebbe essere scritto in nessun partito, però è una voce di fondo segnatamente scritto. Ok, cripto comunista è una definizione che gli ha dato Vittorio Sgarbi, comunque, diciamo, sì. È lui che dà, sì, coniugazione a questi termini. Quindi insomma, noi siamo quasi in chiusura di puntata e luce e ombre un po' su questa Hong Kong, no? Sì, anche diciamo la questione della scarsa democrazia non è che mi convinca tanto, no, perché questi 1200 sembrano un po', diciamo, rappresentare una fascia molto ristretta della popolazione, insomma. Certo. Però ci sono, dovrei dire che penso che circa verso il 2017, almeno per il 2017, dovrebbe arrivare il suffragio universale. Però Pechino ha già rinviato 3 volte, quindi ormai nessuno ci crede veramente. Ok, quindi può darsi anche che non arrivi mai, insomma. Infatti, va bene. E aspettando il 2017, diamo un occhio al nostro blog, www. www.nowboardingradio.wordpress.com. Lì trovate i podcast di tutte le puntate di questa stagione fino al 2017. Infatti, il sito della radio www.radiosandona.it, su Facebook ci trovate sotto Nowboarding Radio, e infine la mail nowboardingradio@gmail.com. Noi ci stiamo per lasciare. Bene, ti ringraziamo Aurelio per il tuo racconto, ringraziamo Skype per averci, diciamo, reso la vita difficile. È stata un po' dura. Grazie Microsoft, mi secondo raccomando. Secondo me perché Aurelio in realtà è in una di quelle è una stanzina con altri sei coinquilini. Può essere, quindi anche la banda ha una densità di utilizzatori, certo, troppo alta. È tutto un problema di densità. Va bene, quindi ci salutiamo. Vabbè, insomma. Ciao Aurelio, grazie mille. A presto. Ciao. Noi ci vediamo ci sentiamo il prossimo mercoledì. Sì. E grazie anche ai nostri ascoltatori. E ci lasciamo con Hong Kong. Questa sì, c'entra con la meta della puntata, sì, dei Gorillaz. Ciao Lorenzo, ci sentiamo. Ciao Francesco. Stars lie.